segnò Zidiana il foglio, oggi morrà di uzione. Tanto giubilo, duce, odio egli è solo, donna gran parte amore. Sì, tua speranza non è ciò che mi acquisto, un letto, un sogno. Qual favella? Ti turbi? Ora te un son di chi ho timor. Sì, parlo libero e franco, sono già mio possesso il tavolo ed il trono. Son tuo possesso?